We're sorry. The number you have dialed is not in service at this time. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note that the new number is... Quanti rumori, quanti pensieri, tutto stasera mi sta stretto. E all'improvviso è nostalgia, ma io vorrei un tocco di magia. E nel mio cuore ho un po' paura, sarà la mia malinconia. E gli occhi tuoi leggo il futuro, e io non ti tradirò. Voci, suoni, silenzio perfetto, tutto intorno siamo soli noi. Voci, suoni, momento perfetto, questo è Eisercast. E non c'è fuga senza vittoria, e io lo so, non fuggirò. Un'altra vita, un altro sogno, e io ti ritroverò. Voci, suoni, silenzio perfetto, siamo soli noi. Voci, suoni, momento perfetto, questo è Eisercast. Salvo il futuro, salvo il pianeta, nel mio momento perfetto. Contro i nemici non c'è pietà, la nostra voglia di libertà. Salvo il futuro, salvo il pianeta, è il mio momento perfetto. Contro i nemici non c'è pietà, perché noi siamo Eisercast. E quando un po' sentirò freddo, io so chi mi riscalderà. Sarà una birra e un buon fumetto, e tutto si riaccenderà. Voci, suoni, silenzio perfetto, siamo soli noi. Voci, suoni, momento perfetto, questo è Eisercast. Salvo il futuro, salvo il pianeta, è il mio momento perfetto. Contro i nemici non c'è pietà, Eisercast. Salvo il futuro, salvo il pianeta, è il mio momento perfetto. C'è pietà, la nostra voglia di libertà. Salvo il futuro, salvo il pianeta, è il mio momento perfetto. Contro i nemici non c'è pietà, perché noi siamo Eisercast. Scaccia via tutta la solitudine chiusa dentro me, quando non so più cosa fare. Quando resto qui e nei minuti dopo il silenzio, in quei momenti lì, e basta un attimo a stare insieme, insieme. Salvo il futuro, salvo il pianeta, è il mio momento perfetto. Contro i nemici non c'è pietà, Eisercast.